9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno caro ascoltatore, buona settimana da Oscar Giannino, buon inizio di primavera, si fa per dire, l'ho già detto lanciando la trasmissione del saluto di questa settimana, si fa per dire perché ovviamente quando fischiano le bombe e volano gli aerei per l'operazione comunque di un'operazione bellica internazionale sulla Libia, che si aggiunge a quella settimana terribile, 10 giorni terribili che abbiamo avuto dopo il sisma dell'intensità 9 di grado Richter sul Giappone, dire che purtroppo si può stare tranquilli e pacifici sui mercati, come la relazione internazionale, come le materie prime, è un po' un'illusione. Ci siamo posti molto il problema tra venerdì e oggi di quale fosse il tema a cui dedicare la puntata. Tra gli aggiornamenti sul nucleare, lo sapete, abbiamo una questione aperta tra me e voi, e a distanza di 11 giorni questa settimana torneremo sul nucleare per testimoniare se davvero valeva la pena di parlare di incubo. Io continuo a pensare di no. E poi le operazioni libiche ci hanno riposto il focus su quell'altro versante del problema. Però ho già detto e vi ripeto, meglio seguire gli approfondimenti delle notizie prima di pensare alle opinioni. Io sono molto scettico su quello, sulle modalità con cui si sta facendo questo intervento in Libia, tardivo rispetto alla ripresa di controllo, molto rischioso per ciò che fa fare all'Occidente agli occhi delle opinioni pubbliche dei paesi arabi e musulmani, proprio quando quelle opinioni pubbliche da mesi si erano attivate con l'Occidente che stava a guardare. Però mi tengo in tasca il mio scetticismo, vediamo come evolvono le cose, e invece abbiamo deciso a questo punto di rinviarvi a tutti gli approfondimenti dei colleghi dei GR per le operazioni in Libia, come per le informative sul Giappone, e di incentrare questo inizio di settimana su un tema che questa settimana toccherete e ascolterete molte volte per gli approfondimenti che Radio 24 dedicherà a questo tema. Oggi ci occupiamo di teatri e di cultura nel nostro paese, della situazione che deriva dall'aggravamento del venir meno del sostegno a questo settore da parte del pubblico, e interrogandoci, lo sapete, la nostra posizione su come al contempo però il pubblico fa anche molto poco per incoraggiare, incentivare, rendere più redditizio ai privati, a quel punto tentare di fare quello che il pubblico intanto drasticamente non fa più. E perché ce ne occupiamo? Ce ne occupiamo non solo perché lo abbiamo già fatto e perché è una questione fondamentale, perché l'Italia è innanzitutto patrimonio e cultura, lo avete visto nei giorni del 150esimo, i giorni del 150esimo dove in realtà sono avvenuti soprattutto, sì certo, l'altare della patria, ma il Presidente della Repubblica dov'è che si è poi rivolto, dov'è che si è concentrato, dove ha festeggiato, i luoghi simbolici, le modalità, la musica, i testi simbolici che sono il nostro patrimonio, e ha fatto un giro che è stato un giro del soprattutto di grandi teatri in cui sono avvenuti grandi avvenimenti dell'unità, penso al mio Teatro Gobetti a Torino, ma pensate ieri a Milano, a Torino il giorno prima, perché è musica e teatro ciò che in realtà poi è la storia del nostro paese. E ce ne occupiamo questa settimana perché, con diversi approfondimenti, perché questa settimana, il giorno 26, 27, 28 marzo, sono le giornate nazionali per la cultura e lo spettacolo, quindi noi vi anticiperemo dai microfoni di Radio 24 il rapporto di Federcultura dedicato ai teatri italiani che uscirà martedì prossimo. Ci saranno puntate di Melog, di Nicoletti, su che cosa vuol dire ancora per voi dopo questa puntata di oggi fare cultura, tagli sì, tagli no, e fare teatro soprattutto. E il motivo per cui facciamo tutto questo è perché siamo convinti che bisogna tentare di dare una mano, comunque la si pensi, sulle risorse pubbliche a chi si sforza di dare una programmazione di grande livello con risorse limitate e con pochi incentivi anche ai privati, e tiene alto su questo la bandiera della cultura nel nostro paese. A dirvi la verità, l'occasione specifica che ci ha consentito di riflettere su come fare al meglio tutto questo è stata un'ulteriore iniziativa dopo quella del direttore generale Carandini, che abbiamo avuto ospite il giorno delle nostre maniera di festeggiare il 150esimo, e dopo che avevamo ospitato Bruno Cagli, il sovrintendente di Santa Cecilia, il giorno prima in questa trasmissione, è stata un'altra iniziativa di quelle appunto destinate ad attirare l'attenzione. C'è una lettera aperta scritta da Sergio Escobar, che è il direttore del Piccolo Teatro di Milano, quindi un'altra grandissima istituzione culturale del nostro paese, e Sergio Escobar è anche presidente di Platea, che è l'associazione dei teatri stabili pubblici. È una lettera di cui parleremo all'inizio di questa trasmissione, perché Sergio Escobar ci ha fatto il grandissimo piacere, posso aggiungere anche l'onore, visto che quando si tratta di lavorare a questi livelli è onore, perché si tratta di un teatro italiano che è noto in tutto il mondo, di essere qui ospite stamattina ai nostri microfoni. Buongiorno Escobar. Buongiorno, grazie a voi. Ecco, tra pochissimo io gli cedo la parola per dire di che si tratta in questa lettera aperta rivolta al ministro. Avremo poi come nostro ospite anche il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali, che intanto saluto. Mario Resca, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Mario Resca, e lo abbiamo già sentito diverse volte, e io ci tengo molto al direttore, perché il direttore è appunto quella parte di mestiere che chi come me ama il mercato vorrebbe sempre più introdotta nel pubblico, e lui ha il difficile compito di provarci, perché poi sapete che insomma la resistenza degli apparati pubblici, lo dico io, non lo deve dire lui ovviamente, è un'altra parte un pochino peculiare della storia del nostro paese per quello che riguarda negli interventi culturali. Ma iniziamo innanzitutto con Sergio Escobar. In questa lettera al Ministero della Cultura lei dice a un certo punto: credo inutile aggiungere molte considerazioni o impietosi confronti con altri paesi, argomentare su ciò che qualsiasi amministratore dotato di buon senso darebbe per scontato. E l'accusa, la considerazione, non voglio dire l'accusa, è quella che di disattenzione in disattenzione, di taglio in taglio, perché c'è stata questa ultima beffa, lo ricordo, ne abbiamo già parlato più volte, di 77 milioni spariti dopo 160 milioni che erano spariti, cosa che significa, io non protesto mai per la montata dei tagli, ma ammettetelo, tagli di questa consistenza a distanza di poche settimane da tagli tanto consistenti prima, mettono tutti nell'impossibilità di programmare, di fare i bilanci. Questo poi è la cosa elementare, cioè al di là di come la si pensi. Ecco, in questa lettera in cui lei preannuncia le sue dimissioni, che presenterà il 22 marzo al Consiglio Generale del Piccolo composto dai soci della Fondazione, lei che pure rappresenta un'istituzione che ha il privato, è capace di portare soldi di privati, perché fa questo gesto? Beh, perché non sono venuto a mostrare i muscoli del piccolo. Va ricordato che si autofinancia per il 52%, fa circa 1000 aperture di sipari all'anno, è stato in 30 paesi di tutto il mondo negli ultimi 10 anni, ma questo vuol dire, è un fatto, e né solo a dire quali conseguenze pratiche ha questo taglio, perché le conseguenze pratiche sono molto semplici: si ferma qualsiasi attività, perché come lei ricordava un taglio del 60% è incompatibile con qualsiasi gestione corretta. Ma soprattutto, e di questo la ringrazio di questo invito, nella lettera io rivendico un principio che condivido con altri colleghi, e cioè che in realtà siamo arrivati a questo punto perché lo Stato italiano nei decenni non ha mai ritenuto questo un vero investimento. È un conto è dirlo, si fanno un sacco di convegni, si afferma, è un conto è poi il metodo con cui si mettono, si investono e si legittimano degli investimenti. E la beffa finale è appunto tagli che sono addirittura retroattivi, perché va ricordato questi tagli sono relativi al 2011, quando chiunque sa che le programmazioni dei teatri sono già avvenute, non solo, le stagioni sono già vendute. Allora siamo davanti a un paradosso. I paradossi possono indignare o possono cercare di far capire cosa succede. Quello che io sostengo è che con questo modo di procedere si conferma, uno, che non si ritiene l'investimento nella cultura tale, ma che si tende, esattamente al contrario di quello che si afferma, a ritenerlo una sorta di prebenda che si dà a qualcuno. Normalmente è accaduto prima dell'istituzione del FUS addirittura a piedi lista, cioè sostanzialmente noi non siamo dei produttori di beni e di servizi, noi siamo un manipolo di intellettuali più o meno scomodi, più o meno di sinistra, a cui si elargisce o meno un finanziamento in base alla simpatia o le contingenze economiche. La interrompo per un inciso, perché già arrivano i primi sms dagli ascoltatori. Al di là, non entriamo nella faccenda destra o sinistra, questione politica, no. Però a molti, a moltissimi, temo a più di quanti sembri nei sondaggi scritti dai giornali che solidarizzano in realtà col mondo della cultura, come dell'accademia, come del teatro, a molti, già subito vedo tagliare, tagliare, tagliare. Io taglio a casa mia da 3 anni rispetto al mio minor reddito. Come faccio a immaginare che bisogna invece difendere i soldi dati a chi? a chi lavora in teatro o a chi va al teatro? A chi lavora in teatro? Ecco, questo è un Gianni che ci scrive. Ma guardi, mi sembra, io non sono affatto in contrasto con questa considerazione. Pensare che il teatro sia fuori dal mondo, cioè che non debba tenere presente l'andamento complessivo della spesa pubblica, della crisi, è pura follia. È improponibile, anche perché noi viviamo di pubblico, il pubblico è quello che fa i conti tutti i giorni con il proprio bilancio, e quindi saremo veramente fuori dal mondo. Questa è un'affermazione. Altra cosa invece è operare e introdurre un principio di irresponsabilità nella gestione dei finanziamenti, e sostanzialmente invece di dare una mano, invece di decidere di uscire dalla crisi generale del paese e di far uscire anche i teatri dalla crisi, si introducono meccanismi che aggravano questa crisi. Quindi sostanzialmente non si produce un'uscita, non si produce un investimento, ma si aggravano le situazioni. Paradossalmente sono talmente d'accordo con la telefonata con questo SMS che è arrivato, che ritengo le modalità con cui vengono erogati i finanziamenti a piedi lista a fine anno, credo che il nostro ascoltatore sarà d'accordo con me, quando ti dicono il 23 di novembre del 2010 qual è l'investimento per il 2010, c'è qualcosa che non funziona. Direi di sì. Quindi la solidarietà è totale con queste telefonate. I teatri debbono, tutto il mondo della cultura, vivere la realtà del paese, quindi anche la crisi. Quello che io ho voluto evidenziare è che in questa situazione particolarmente complessa l'operato del Ministero, fatto in questi termini, è assolutamente corrisponde a privare gli amministratori dei teatri della responsabilità di gestire correttamente gli investimenti. Sostanzialmente manca assolutamente un progetto, manca un contesto in cui questa spesa, questo investimento si legittima e si articola, e quindi può anche adattarsi e deve adattarsi a contenimenti generali della spesa, e si introduce invece un meccanismo parallelo che prescinde totalmente dalla logica produttiva, quindi dalla redditività dell'investimento. Dopodiché credo che nessuno più di me sia felice che il maestro Muti e altri abbiano dimostrato in modo anche plateale, ma è abbastanza assurdo che si debba ricorrere al BISD del Vapensiero per spiegare che queste sono attività produttive che debbono rispondere dei soldi che ricevono. Ecco, paradossalmente quello che avviene, che io contesto al Ministero, ma negli ultimi 20 anni, è esattamente questo. Posso farle un'obiezione? Qui non abbiamo il Ministro, adesso vedremo il Direttore, ma il Direttore appunto si occupa di un'altra cosa, e a lui adesso tra un minuto chiederò di ciò di cui si occupa, qual è il bilancio. Però io immagino che se avessimo il Ministro attuale, il suo predecessore e così via, ci direbbe, Escobar ci sta chiedendo di fare tempi coerenti con la programmazione e anche scelte, perché dice e bisogna essere coerenti con un quadro di rientro. Però nella realtà tutti i ministri poi che cosa si trovano a fronteggiare? Si trovano a fronteggiare la rappresentanza di tutti i teatri stabili, delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche eccetera, che invece tendono a esprimere una cosa in cui si chiede alla politica più che altro di non esercitare scelte di priorità. L'abbiamo visto quando si è trattato di scegliere chi nella lirica è davvero teatro nazionale, oltre alla Scala, 1, 2, 3, 4, enorme polemica tra tutti i sovrintendenti, come dire, ma se voi date una priorità a qualcuno significa che voi negate il fatto che da Palermo al Massimo, al San Carlo di Napoli, eccetera, eccetera, siano tutti prioritari. E non è un po' così anche? No, io le rispondo subito, chi ha la responsabilità di governo? I direttori o il governo? È la politica che deve scegliere. È esattamente questo. Se noi siamo arrivati al punto paradossale che i tagli sono inutili, l'abbiamo detto, inutile sprecare, insomma, chiunque gestisca una tabaccheria capirebbe, con tutto rispetto per quel settore, diminuzio, capire che è incompatibile, che così non è un investimento, così secondo come ci si sveglia la mattina si danno soldi o meno, ma chi deve governare? Chi deve governare? Io sono anche convinto che non possa essere il problema di questo o di quel ministro. Paradossalmente, si è occupato degli investimenti nella cultura il ministro Tremonti, che secondo me è uno che lo conosco da tanti anni, sa leggere e scrivere, non ha mai detto, ma non scherziamo. E se si escono con uscite paradossali, con la cultura non si mangia, è solo per dare, per elevare ogni riferimento razionale all'assunzione di responsabilità. Quello che io dico che è mancato, e non è la solita storia, il problema è un altro, il problema è esattamente esattamente questo. Ecco. La responsabilità di governo. Assumersi le responsabilità vuol dire fare delle scelte, ma prima ancora vuol dire correlare le modalità, i tempi, l'entità degli investimenti a degli obiettivi che si vogliono perseguire. Guardi, io siamo arrivati a questo paradosso che quando sono diminuiti i finanziamenti, il Parlamento ha approvato all'unanimità una proposta di legge, un disegno di legge. Ci è stato detto non approviamo la legge perché non ci sono i soldi. È pura follia. Se ci sono meno soldi bisogna avere più criteri per investirli. Esattamente, questa è la mia stessa opinione e quindi iniziamo questa settimana in cui faremo il punto sui teatri italiani dicendo che questa è la mia modestissima opinione. Io sono per esercitare queste scelte, come dice Escobar, in tempi coerenti alla programmazione di risorse scarse e quindi per consentire a chi poi guida i teatri di potersi fare una programmazione pluriennale, perché questa è la realtà quando si producono grandi spettacoli e si vuole portare nel mondo, pluriennale. Posso solo dire certo, una cosa? Certo. Allora, il Fondo Unico dello Spettacolo è questa specie di mostro che continua a essere citato e viene indicato come il padre, la madre, il figlio di tutti i mali. In realtà il Fondo Unico dello Spettacolo è stato rivendicato da direttori responsabili di teatri, da sovrintendenti, 20 anni fa, per mettere fine i finanziamenti a piè di lista. A e si è detto allo Stato: noi dobbiamo rispondere degli investimenti, voi dovete dirci nei prossimi 3 anni qual è l'investimento che intendete fare, complementare. Ricordo che il piccolo è il 15% lo Stato, il resto viene da privati e da altri soggetti pubblici. Su questo noi costruiamo. Poi succede un cataclisma, succede che il paese entra in crisi, anche noi non siamo mica matti. Però è vero che il FUS viene gestito con il 30 di dicembre, ti dico che cos'era l'anno scorso. Guardi, è assolutamente così. Il 23 di novembre del 2010 ci hanno detto qual era l'investimento dello Stato. Io credo che francamente il primo anno di ragioneria, uno studente, se pone la cosa in questi termini, viene bocciato. Allora, per gli ascoltatori, per essere chiari, come vedete, non tutto il mondo della cultura, del teatro, eccetera, chiede i finanziamenti a pioggia. Probabilmente non li chiede nessuno, però è essenziale stabilire questo: tempi, procedure, modalità. Senza che nessuno immagini più che c'è questo oceano di risorse. Guardi, tra l'altro, che proprio di fronte alla minaccia di tagli o la necessità di riduzioni, un conto è il taglio, un conto è la riduzione. Il taglio lineare, avete già speso molte parole voi nel passato, non c'è bisogno che ci torni. Di fronte al problema della crisi che ha attraversato il paese nel 2008 con la crisi mondiale, molte associazioni, tra cui Platea, ha chiesto al Ministero di operare secondo criteri di maggior rigore ancora e soprattutto di restituire. Guardi, al ministro io ho detto: lei sta facendo un danno preterintenzionale, credo, perché non riesce bene a capire qual è la conseguenza, ma lei, che è quello appunto di bloccare l'attività. Ma il danno maggiore che voi state introducendo è togliere il principio fondante di qualsiasi buona gestione: il diritto a esercitare la responsabilità nella gestione del denaro. Esattamente. Credo che non sia solo in questo settore che accade. Chiaro. Questa è la chiave. Allora, il senso profondo, io la ringrazio di aver citato nella lettera non solo le dimissioni in Italia, le dimissioni si minacciano, si fanno ogni giorno, ma l'aver posto questo problema. Perché se anche fra qualche giorno sarà ricostituito il FUS, come io mi auguro, beh, altrimenti si blocca tutto, siamo a questo livello, se noi non ragioniamo in questi termini, l'anno prossimo saremo esattamente nella stessa situazione. Io a questo punto, Escobar, e qui concludiamo per andare in pubblicità e tornare poi con Resca, io devo dire la verità, non sono convinto che forse non si debba passare, visto in realtà il livello del taglio della montare rispetto a ciò che serve per far andare avanti il sistema inerzialmente così come oggi, perché per chi conosce il numero dei bilanci sa che tagli di queste proporzioni rendono necessario una profonda revisione, allocazione di priorità, eccetera eccetera. Io temo che invece l'atteggiamento sia grande battaglia ma tornare a quel livello. Io non credo che al ministro tornerà indietro, questa è la mia sensazione, e allora forse si deve passare attraverso un trauma, compreso il fatto che come 20 e più anni fa è nato il FUS, forse bisogna pensare a un meccanismo di nuovo diverso, perché... Sì, mi permetto di fare due considerazioni molto terra terra. La prima è che il livello complessivo degli investimenti, così come è, incompatibile con qualsiasi sistema. E la seconda considerazione è che l'incompatibilità con qualsiasi sistema rende più difficile, perché distrugge fare scelte, perché distrugge le cose che meglio funzionano. Esatto, soprattutto chi le fa meglio. È devastante. Sì, non ne voglio fare una questione, bravo gli altri. No, è una questione di metodo. No, e l'abbiamo visto metodo, anche coerenza. Con Santa Cecilia, che nell'ambito delle 14 fondazioni ha un Quando un teatro si finanzia più del 50%, se taglia la propria attività, fa un danno nel proprio bilancio, che è due volte tanto il taglio. Certamente, perché quindi questo rende impossibile la sua capacità di attirare con più spettacoli, quindi, di miglior capacità di le risorse avere il diritto di esercitare responsabilità nei confronti del pubblico, nei confronti di chi ci lavora, nei confronti di chi, come chi ha mandato l'SMS, condivide di mettere dei soldi in questa attività. Tornati in studio per questo inizio di settimana che Radio 24 dedica al problema dei teatri in difficoltà, perché questa è una settimana in cui insieme cade la giornata mondiale del teatro, in cui ci sono le tre giornate, sabato 26, domenica 27, lunedì 28, il prossimo fine settimana di mobilitazione a difesa dei teatri contro i tagli del governo, e in cui poi viene presentato il rapporto annuale di Federcultura di Confindustria, quindi anche su questo e oltre a questo inizio di settimana qui abbiamo con Sergio Escobar, direttore del Piccolo di Milano. Voi sentirete in ogni edizione raccontare del GR in questi giorni e ripetuto poi nelle sue diverse edizioni del giorno, un teatro italiano alle prese con le difficoltà del suo bilancio, con le sue programmazioni, con i suoi successi. E mercoledì e giovedì vi parleremo del rapporto annuale di Federcultura sulla situazione che anticiperemo, e venerdì infine a Melo Gianluca Nicoletti tornerà a confrontarsi con voi su cosa vuol dire fare teatro. Poi sabato e domenica ancora vi proporremo tra l'altro un reportage inizio di programmazione con una sintesi e nuovi approfondimenti sui teatri inglesi, e alle 10 sabato mattina un confronto con quanto succede nel resto d'Europa. Per concludere di questa settimana con tutte queste iniziative dedicate a un tema che per noi è fondamentale, domenica sera alle 21, fin da ora vi anticipo che Armando Torno dedicherà una puntata speciale di Musica Maestro. Ci rivolgiamo innanzitutto a tutti coloro che amano il teatro, anche a coloro che vi lavorano. Qualunque vostra riflessione mandateci all'indirizzo teatri@radio24.it. abbiamo aperto come vedete un confronto diretto all'indirizzo teatri@radio24.it. l'invito a tutti voi a dire la vostra. Caro Escobar, qui io continuo ad avere ascoltatori che però mi dicono: possibile che non sia possibile in Italia un teatro che si regge solo con incassi? E chi l'ha detto? Escobar non ha detto questo, a dire la verità. Non facciamogli dire ciò che non ha detto. A questo proposito abbiamo una rapidissima telefonata, perché poi altro da fare, con il direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi, che saluto, e che sul Sole 24 Ore proprio pochissimi giorni fa è intervenuto su questo tema dicendo: ma chi l'ha detto in definitiva che poi questi tagli non siano l'occasione per rivedere tutto e non possano fare bene? Buongiorno Mingardi, ci spieghi. Buongiorno a voi. Ma direi che è già stato detto in maniera molto chiara che quando noi mettiamo lo Stato all'interno di qualsiasi genere di relazione economica ne seguono determinate caratteristiche. Una di queste è la discrezionalità nell'allocazione dei fondi, l'altra è la sostanziale imprevedibilità. Perché poi, diciamo la verità, il problema di questo genere di tagli, come lei ha già detto in più di un'occasione, è appunto che rendono difficile fare una programmazione sensata per i teatri, per gli enti lirici come aziende. Ora, noi non possiamo pensare però che il modo in cui una realtà viene gestita sia indipendente dal sistema di incentivi. Morale della favola: se noi dobbiamo incentivare la tutela di questo grande patrimonio culturale, che in Italia è anche i teatri, gli enti lirici, la musica, eccetera, eccetera, eccetera, dobbiamo cercare di avere gli incentivi che portino il più possibile le gestioni dei singoli enti a performare, a fare bene. Fare bene che cosa significa? Come sempre significa confrontarsi col pubblico, attrarre nuovi pubblici, fare in modo che il bello che queste istituzioni incarnano e promuovono sia, come dire, il più possibile diffuso. La domanda che dobbiamo farci è: il finanziamento pubblico, per come è stato gestito sino ad ora, aiuta questa intenzione oppure no? Risposta? Risposta, secondo me, in tutta evidenza, no. Come dire, se ogni anno ci poniamo questi problemi, se tutte le volte dobbiamo andare a discutere di alcune grandi situazioni di eccellenza nel nostro paese contro invece una realtà più vasta, come dire, nella quale la buona cura manageriale è meno diffusa, se, ribadisco, questi problemi sono assolutamente ricorrenti, avremmo potuto avere una conversazione molto simile l'anno scorso o due anni fa, beh, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel sistema di incentivi. La cultura è importantissima, in tutta evidenza è il grande patrimonio del nostro paese, non è vero che con la cultura non si mangia, perché come dire, non di solo pane vive l'uomo, in tutta evidenza, ma proprio perché è così importante, noi dobbiamo cercare di renderla più efficiente e più capace di attrarre l'interesse del pubblico, anche di quello che oggi sente magari come dire, un po' di trepidazione nell'avvicinarsi a dei templi della conservazione della cultura alta, che in realtà però dovrebbero, come dire, svolgere la funzione di avvicinarla quanto più possibile anche a chi non la conosce. Questo di Mingardi, che io ringrazio, è la mia opinione, perché ciò che io trovo riprovevole sono gli incentivi sbagliati dati con questo sistema che abbiamo qua ridescritto del FUS, che arriva a fine novembre a dire ciò che in teoria doveva essere già avvenuto. Così si porta tutto al collasso, soprattutto non si dà l'incentivo, il premio, l'indicazione di come attraverso griglie di incentivi a favore si può potenziare l'esempio che viene dal Piccolo di Milano, non solo dal Piccolo di Milano, anche da tanti teatri che sono stati alle prese con pesanti deficit e debiti e che, messi nelle mani di direttori che hanno dovuto a quel punto fare di necessità virtù e fare punti a capo, Massimo di Palermo per dirne uno e così via, a quel punto hanno dimostrato che cosa si può fare. Certo, è un settore particolare, è un settore nel quale il mercato può fare tantissimo, molto di più che da noi, però va messo nella condizione di poterlo fare. Significa cambiare per esempio integralmente il regime o quasi il regime degli incentivi fiscali disposti dallo Stato, per essere chiari, altrimenti è un pochino difficile immaginare che ciò possa avvenire. Ma perché questo possa avvenire bisogna abbattere discrezionalità, il ritardo temporale, i criteri di ripartizione che cambiano addirittura a distanza di poche settimane, come è avvenuto adesso. Quindi il discorso è complesso e per voi in ascolto sappiate che noi siamo, crediamo, coerenti nella nostra impostazione, ma quello che a questo punto diventa allarmante è assistere a un falò di tutti, dei buoni e dei cattivi, che rende impossibile quasi a tutti andare avanti. Allora, adottiamo questo stesso criterio in ciò che riguarda musei e patrimonio culturale. Abbiamo il direttore Resca, qua l'abbiamo fatto perdere troppo tempo fino a questo momento, gli ascoltatori e i lettori di giornali hanno visto in questi giorni, questo fine settimana, le classifiche dei luoghi d'arte italiane, hanno visto che al Colosseo quasi più 10%, più 9,85% nel 2010 con 5 milioni e 113 mila visitatori, 33 milioni di incasso. Pompei più 11% con 2 milioni e 299 mila, gli Uffizi più 7,9, 1 milione e 651 mila, la Galleria dell'Accademia a Firenze più 3,6%, Castel Sant'Angelo più 13,8%. Insomma, malgrado tutto, gli afflussi, soprattutto nelle grandi città d'arte e turismo, continuano ad andare bene. Resca, dal punto di vista di ciò che meritoriamente con la sua nomina, secondo me, è stato posto all'ordine del giorno, cioè come mettere meglio a reddito il patrimonio culturale, formula equivoca perché molti pensano che siano gli artigli adunchi del privato, invece l'abbiamo spiegato mille volte, non è questo. Il suo bilancio, il suo in questo settore, nell'anno alle spalle, lo rende soddisfatto? Si è fatto qualche passo avanti? Quale? Beh, innanzitutto proprio la fase che sia stata istituita la direzione per la valorizzazione, l'obiettivo è stato quello di avvicinare alla cultura, al nostro patrimonio culturale, il maggior numero di concittadini connazionali e anche di turisti stranieri. Il nostro patrimonio è enorme, l'abbiamo detto mille volte, è una risorsa economica, ma è soprattutto una risorsa che deve innalzare e avvicinare e migliorare il senso civico. L'abbiamo visto ai 150 anni dell'Unità d'Italia, come la cultura sia diventata e sia, lo è sempre stato, l'identità del nostro paese. Noi abbiamo la fortuna di avere questo enorme patrimonio, abbiamo la responsabilità di tutelarlo, di conservarlo, ma anche di metterlo a disposizione col maggior numero di persone. Io quando sono arrivato, da anni noi perdevamo un numero di visitatori dei musei, l'obiettivo nostro che siamo dati è stato proprio quello di avvicinare, rendere più democratico, rendere, avvicinare al nostro patrimonio culturale, al bello, alla conoscenza, il maggior numero innanzitutto anche di nostri connazionali, i nostri concittadini, e poi di attrarre maggiore turismo. Abbiamo fatto quello che si chiama promozione, abbiamo fatto comunicazione, abbiamo detto che li vogliamo, abbiamo detto ci siamo preparati, abbiamo fatto le cose normali che si fanno quando uno vuole acquisire maggiore quota di mercato. L'obiettivo non è stato fare più reddito. Chi pensava che noi facessimo mercificazione si è sbagliato. L'obiettivo che ci siamo dati, un obiettivo triennale, è quello di ribaltare la curva negativa che avevamo di visitatori, quindi c'è una grande discrasia fra il fatto che noi dicessimo che siamo i numeri uno al mondo per il patrimonio, poi vedevamo che l'accettazione di questo detto non era vero perché i numeri ci erano torto. Ci sono dati un obiettivo triennale per ribaltare questa curva e già l'anno scorso, 2010, il primo anno del nostro obiettivo, abbiamo fatto più 16% di aumento di visitatori nei solo siti dello Stato, sono oltre 450 tra siti archeologici e musei. E questa strategia è stata, ripeto, comunicazione e promozione. Abbiamo creato molti eventi che hanno dato la gratuità dell'entrata nei nostri musei, tipo la settimana della cultura, dove tutti i nostri musei sono aperti per una settimana, per 9 giorni, la festa della donna, la San Valentino, abbiamo avuto il 17, adesso il 20, per l'evento il 17 di marzo, tutti i musei aperti, enorme successo. Abbiamo creato per il 2011 un altro evento promozionale molto interessante, se vuole che accattivante, tutti coloro che compiono gli anni, il giorno del proprio compleanno, sono ospiti gratuiti in tutti i musei dello Stato. Abbiamo lavorato con i musei civici, abbiamo lavorato con le regioni per creare e riportare anche il dibattito della cultura al di fuori degli specialisti, cioè io mi sono rifiutato di pensare che cultura sia solo un dibattito fra specialisti che si vedono e si parlano attraverso la pagina della cultura, ma come vede è un fatto sociale, è un fatto economico, l'indotto che crea la cultura è enorme, tenga conto che ormai il 50% del nostro turismo che viene dall'estero è turismo culturale, nonostante l'Italia sia scesa purtroppo al 5° posto nella graduatoria per l'attrazione di turisti dall'estero, noi la nostra crescita del turismo culturale fortunatamente in questi decenni è passata dal 14% al 50%, che vuol dire poi una grande ricaduta economica sul territorio, lì è è il fatto importante, è la ricaduta economica del turismo che non solo è quando compra biglietti, ma quando compra libri, quindi l'editoria, la manutenzione, la tutela, l'enogastronomia, il territorio, l'hotelleria, i trasporti, la comunicazione, sono tutti, innestano una serie di interessi economici sul territorio sui quali noi riteniamo, e io ritengo come uomo che viene dall'impresa, che veramente l'Italia debba investire di più, quindi sono d'accordo con quanti dicono che bisogna investire più sulla cultura, bisogna investire in modo migliore, bisogna anche, per anni noi abbiamo pagato la cultura in modo a pioggia e questo ha semplicemente alimentato inefficienze, parlo anche del teatro, per esempio non è che il teatro si faccia solo in Italia, si fa in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania, mi piacerebbe sapere qual è il fatturato per dipendente che fa per esempio ogni singolo teatro in Italia rispetto a quello che fanno in Inghilterra o a Parigi, e qui avremo qualche dispiacere, oppure il numero di spettacoli per dipendente che vengono fatti nei teatri italiani, visto che ne abbiamo parlato, sono d'accordo con Mingardi, cioè noi dobbiamo stimolare l'efficienza. Quindi noi abbiamo questo grande patrimonio culturale di cui siamo fieri, abbiamo questa grande responsabilità di tutelarlo, ma abbiamo anche una grande responsabilità e opportunità per diffonderlo, per creare ricchezza attraverso proprio e dobbiamo attraverso il turismo culturale, a cui domanda in aumento in tutto il mondo. Abbiamo visto che con poche iniziative noi abbiamo ribaltato violentemente una curva che era in negativa da anni in una curva positiva. Oggi si parla, abbiamo tentato di far diventare i musei, la cultura, i nostri siti d'arte, l'archeologia come una parte normale della nostra vita, non si va nel museo solo per evento eccezionale perché si è in vacanza e ci si sposa, abbiamo fatto per esempio allungato gli orari dei musei fino a mezzanotte, le 2 di notte, grande successo perché finalmente coloro che vivono nelle proprie città possono conoscere l'arte e i musei delle proprie città. Ecco, io non posso che fare gli auguri a Mario Resca per continuare con questa concezione di moltiplicatore del patrimonio. Naturalmente si può auspicare che le risorse, però intanto le decisioni sono quelle che sono. In questa settimana noi approfondiremo esattamente anche la questione dell'investimento e dell'incasso comparato, e ci sono un po' di sorprese su questo, però, perché si scopre che altri sono in realtà molto più bonifici di noi, perché se si conoscono bene gli ordinamenti si vede che il contributo pubblico, ohimè, è maggiore, e soprattutto in termini di produttività quello che è avvenuto in importantissime istituzioni culturali e teatrali del nostro paese negli ultimi anni ci ha fatto scalare tantissime posizioni per numero di rappresentazioni sul totale del calendario annuo e ritorno degli investimenti nelle produzioni. Voi sapete che le produzioni vanno distinte, le produzioni proprie, sulle produzioni importate e così via. Quindi da questo punto di vista, anzi, è uno dei motivi su cui più insisteremo questa settimana, perché conoscere i numeri comparati consente di avere un'idea su quello che è avvenuto e su cui bisogna insistere, ovviamente. Però insomma non è solo disastro, anzi al contrario, ci sono molti punti. Alla fine, con poche risorse bisogna addestrare l'ingegno. Strade! Allora dedichiamo questi ultimi 5 minuti a una riflessione su che cosa aspettarsi dopo il Veni, vidi capì, di Giulio Tremonti, al mondo della cultura e del teatro, che ha fatto molto sperare. Però prima sentiamo, è una parodia, lo dico per coloro che riferiranno al ministro che lo stiamo prendendo per il culo. No, è la parodia di Corrado Guzzanti, come Corrado Guzzanti vedeva Tremonti che taglia i teatri. Però avete fatto dei tagli spaventosi che metteranno in serie difficoltà la lirica. Dai, non è vero. Rischia di scomparire la Scala, il Maggio Fiorentino. Allora, aiutami a dire questi cazzi. Posso dire una cosa sulla lirica? Questa roba del teatro lirico in Italia deve finire, perché questa è una roba corporativa che fanno sempre la stessa roba, perché se voi andate c'è sempre la storia di questo, come si chiama, il Trigoletto, quello che è il portatore di handicap, Rigoletto, e tutti gli anni il portatore di handicap, oppure la storia di quella baldracca, e quella baldracca che poi mi va a morire di tifo, ma che la traviata, e allora tutti gli anni fanno questa cosa e io vado e sono milioni che costa questa roba, e è sempre la stessa baldracca che muove sempre di tifo, dai Dandini. Ma no, è l'opera, non è, ma è la tradizione, dai, della lirica, è la tradizione, ma non allora, si può non fare Prima cosa, se non avete idee, prendete un format europeo, prendete un'altra cosa. Poi se siete interessati a baldracca e tifo, informatevi in giro per il mondo. In ogni caso, non togliamo nulla. Ma non si può fare a meno di questo. Ma perché non si può fare a meno? La lirica, comunque. La lirica, io voglio dire una cosa. Volete, per se qualcuno che ha curiosità di sapere se anche quest'anno la baldracca ma di tifo, noi abbiamo istituito un numero verde. No. Rispondo io personalmente. Un numero verde. No, dai, se c'era un problema di fare cazzo. Mi chiami, rispondo io e dici come va a finire la baldracca, e io rispondo e dico morta anche quest'anno di tifo. Va bene. Però di fronte a questo ha scritto Francesco Micheli, che è uno dei grandi ideatori e finanziatori, per esempio, del mito che è diventato lo sviluppo prima del settembre musica torinese. Io sono torinese, che è diventato da qualche anno a questa parte mito, anche lì con forti capitali privati che hanno fatto una manifestazione qualità di eccellenza, e anche molto ben finanziato dagli enti locali, a dire la verità. E Francesco Micheli ha scritto su Sole 24 Ore: va bene, io mi aspetto che Tremonti, dopo questo Veni, vidi, capì, siccome è buono, Tremonti capisca davvero. Allora, Escobar, dopo questa speranza di Micheli e la frase un po' cesariana, per così dire, di Tremonti, lei invece, con questa sua lettera, cosa si aspetta? Guarda, intanto mi faccia tornare un secondo velocissimamente. Ma perché dobbiamo sempre piangerci addosso per giustificare la nostra ipocrisia? La Francia investe 4 volte tanto quello che investiamo noi, con una produttività, io parlo delle drone comparato al piccolo, che è della metà. Allora, ma lo faremo in settimana, noi la risentiamo in settimana, ecco, su questi volentieri. Numeri. Allora, ipocrisia, questa è una trasmissione in cui l'ipocrisia viene buttata alle ottiche. Perché noi dobbiamo dire che il finanziamento pubblico che viene fatto in tutta Europa secondo criteri corretti, in Italia non ci deve essere solo perché non sappiamo farlo nel modo corretto. Seconda riflessione, tema che sicuramente affronterete, l'apporto dei privati. Cito solo velocissimamente un episodio. Legge sulle donazioni. Impatto su il mancato introito per lo Stato, quindi l'erario. Sa come programmazione triennale si prevedeva che il primo anno fosse compatibile con una diminuzione di entrate di 300 milioni di euro, Uno pensava il secondo 400, il terzo 500. No, il primo anno 300, il secondo 200, il terzo 100. Beh, così non si può continuare a blaterare dell'investimento dei privati. Sono due temi che credo voi affronterete. Sì, sì, sono due temi cruciali. Sono pilastri. Ci abbiamo fatto convegni, abbiamo sentito opinionisti. Nessuno ci ha mai messo dentro con responsabilità le mani e con coerenza. I soldi che vanno al Metropolitan sono soldi pubblici. Sono soldi che non vanno all'erario. Esattamente. È così. E allora dobbiamo riflettere che la cultura in realtà non in nessun posto del mondo, quando non è immediatamente commerciale, vive senza finanziamenti pubblici. Se siamo un paese che non è in grado di gestire correttamente i finanziamenti pubblici, dobbiamo porci la domanda perché e non mettere in discussione. E questo è il problema della politica italiana in generale. La questione, quindi, sintesi del primo giorno. Non è solo un problema generico politico, le risorse sono meno. Sì, proprio per questo, programmazione lunga, criteri chiari e non discrezionali e soprattutto cambiare tutta la cosa degli incentivi privati, mettere in condizione chi fa il suo mestiere di poterlo fare al meglio. Questo sarà tutto ciò che questa settimana faremo. Ma si aspetta un nuovo ministro? Non ho capito, Scubaro, non se lo aspetta. Ma guarda, io mi aspetto un ministro. Oh, fine della puntata! Perché questo sarebbe un grande evento, aspettarsi un ministro. Lo dico con piena solidarietà umana per il ministro attuale, ma qui siamo senza ministro. Possiamo andare avanti così? Chissà, forse senza ministro si può evitare di fare peggio, però una politica che è ridotta a questo fa pensare sulla condizione del paese. Un saluto a tutti, un grazie a Escobar, a Resca, a Mingardi, appuntamento a domani di Nel Giornale Radio.